e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Mamma mia, eccoci contemporaneamente. Aspetta che qua c'è un microfono un po' troppo guarda alto. Di qua, perché siamo in diretta Facebook con sì, i nostri attimo. Amici, c'è aspetta, Marco. Aspetta, che però intanto mi vedono un po' come qua, sto facendo i lavori come un'operaia, sto sistemandomi i microfoni perché qua non li sistemo. Intanto Carmelo ride perché sa che alla fine ce la facciamo. Pronta? E noi siamo pronti, oggi finisce la settimana. Esatto, però si parla di un tema che non finirà di far parlare di sé ancora a lungo per quello che riguarda naturalmente il tema denaro a 360 gradi, perché oggi parlo di Brexit, cara mia. Ci sono ben 600.000 italiani che vivono nel Regno Unito e ancora attendono di capire che cosa sarà della loro vita da qui ai prossimi 2 anni, quando si completerà il processo di uscita del Regno Unito dall'Unione Europea. Quindi? Però anche la scienza è alla prova della Brexit. Abbiamo letto un bellissimo articolo di Alberto Mantovani, di un amico Mantovani, di Cuore Denari, sì. Che è direttore scientifico di Humanitas e docente di Humanitas University, che racconta quanto la Brexit possa avere un peso anche per la ricerca e che cosa sta facendo anche cosa stanno facendo nel Regno Unito per portarsi avanti. Questo è interessante, come dicevi tu, un tema alla Cuore Denari, esatto. Anche alla Brexit. Infatti. Benissimo, tu invece oggi salute uomo. Oggi hai salute uomo, fra un po' ci raggiunge qua, ormai siamo tutti amici, Andrea Saloni, e so che hai un piatto ricco. Piatto ricco, sì, perché parleremo di pillole dell'amore, di fertilità, di contraccezione. Benissimo. Al maschile, una rassegna stampa molto nutrita, e poi la nostra rubrica Piccolo Grande Uomo, e poi finiremo in dolcezza, giornate per la ricerca dell'AIL con uova di Pasqua, ma ricette stellate, quindi benissimo. Restate con noi. Partiamo subito. La nostra musichina della rassegna stampa naturalmente ci consente di fare il consueto punto di borsa per tutti quegli ascoltatori che poi, quando ce la dimentichiamo a quest'ora, si lamentano un po'. Li accontentiamo, abbiamo un quadro prevalentemente negativo oggi tra i listini continentali, -0,34% a Parigi, -0,11% a Francoforte. Marco, se vuoi avvicinarti, ti faccio vedere, facciamo vedere magari ai nostri ascoltatori la piattaforma. Ah, non siamo più in diretta Facebook, facevamo vedere appunto la piattaforma da cui leggo tutti questi numerini. Milano perde lo 0,14%, Londra invece perde un po' di più, -0,58%, proprio Londra, di cui oggi parleremo ampiamente. È stato diffuso il dato sulle prodotto interno lordo del quarto trimestre, non è andato male, +0,7%, in un anno il Regno Unito cresce di quasi 2 punti percentuali. A Milano vediamo un po' i migliori titoli stamattina. Banca Generali +0,96%, peraltro non abbiamo mai raccontato, questo titolo è entrato in quotazione nel rimescolamento del listino, era uscita a Monte dei Paschi, che è sospesa dalle negoziazioni da dicembre, per cui era anche ora che uscisse di scena. Azimut +0,50%, insieme a Poste Italiane +0,50%, ex Orla Holding di casa Fiat +0,46%. I peggiori, dico quelli che perdono più di un punto, Tenaris, Mediobanca, A2A e Unipol. Mi guardi con interesse? No, sì, perché sai che mi piace come racconti racconti tu? Sì, non la racconta nessuno. Mi grazie. Sembra una storia, sai? C'è chi flirta, chi abbandona. Sai che l'euro non flirta più col dollaro? Vedi. Lo ha mollato, è arrivato a 1,09, adesso è 1,0691. In gergo finanziario dei trader tecnici si dice ha fatto tre figure a ribasso. Tre figure a ribasso? Tre figure, 9, 8, 7, 6. No, non sono quelle neanche le panini, le figurine panini, quelle che piacciono tanto a mio nipote di calcio. Allora, a proposito di borsa, come molti di voi avranno sentito, questa è stata la settimana anche della visita in grande stile a Londra, organizzata dall'ambasciata italiana, di una delegazione italiana e molto milanese. A Londra ci sono andati Alfano, il ministro degli esteri, appunto il ministro dell'economia Piercarlo Padoan, il sindaco di Milano Giuseppe Sala, il governatore della Lombardia Roberto Maroni, per quella che è stata definita una vera e propria operazione di marketing territoriale nel giorno di inizio ufficiale della Brexit. In sostanza, questi rappresentanti politici italiani hanno voluto iniziare a promuovere Milano come, per esempio, sede dell'EMA, l'Agenzia Europea del Farmaco. Nicoletta, ti ricordi, non ne avevamo parlato, già anticipato, quando già si cominciava a parlare di questa possibilità. Ma non c'è solo questo, perché c'è anche un'altra notizia che stamattina appunto campeggiava sui giornali, secondo cui il ministro Alfano appunto avrebbe aperto anche uno sportello a Londra, non direttamente, ma insomma penserebbe di organizzare questo punto di riferimento per tutta la comunità italiana che vuole avere delle informazioni per capire che cosa succederà loro. Questa è una comunità molto ricca, 600.000 italiani vivono nel Regno Unito, 450.000 solo a Londra, ed è la seconda nazionalità più presente dopo quella polacca. Dai, lo sapevi? No. Non lo sapevo neanche io, l'ho scoperto ieri così organizzando un po' questa trasmissione. E allora, insomma, oggi proprio di tutto questo parliamo nel nostro primo approfondimento di oggi. Era il 1967 quando i Beatles cantavano Hello Goodbye. Oggi forse l'avrebbero intitolata Goodbye Remain. Sappiamo come sono andate le cose, ha vinto il Goodbye, e nel frattempo, dopo il referendum di giugno, mercoledì scorso, l'atteso 29 marzo, il primo ministro inglese Theresa May ha avviato per il Regno Unito il percorso di uscita dall'Unione Europea con la famosa lettera di richiesta di attivazione dell'articolo 50 del Trattato di Lisbona. Noi abbiamo già parlato molto spesso delle reazioni che i mercati finanziari hanno avuto rispetto a questa decisione. Come ricorderete, le reazioni più forti ci sono state proprio all'indomani e nelle giornate immediatamente successive al referendum, con il crollo della sterlina e il conseguente riprezzamento delle borse. In quel periodo abbiamo parlato molto anche delle altre possibili conseguenze di Brexit per tutti quegli italiani che a vario titolo in questi anni si sono mossi verso questo paese a caccia di opportunità di studio e di lavoro. Lo dicevamo poco fa, una comunità di 600.000 persone, 450.000 concentrate a Londra. L'Italia è il primo consolato europeo per volume di attività nell'Unione Europea. E si tratta appunto, dicevo poco fa, la seconda nazionalità più diffusa dopo quella polacca. Cosa cambia per queste persone? Cosa cambierà per chi invece ancora vede Londra come città ideale in cui trasferirsi per ragioni di studio e di lavoro, e per chi si muove solo per turismo? Sapete che più avanti non sarà più sufficiente andare nella City con la sola carta d'identità, ma servirà assolutamente il passaporto? Ci racconta tutto questo il dottor Luigi Belluzzo, dello studio Belluzzo & Partner, che salutiamo. Intanto buongiorno e benvenuto a Cuore Denari, che peraltro è appena tornato da Londra, è Global Managing Partner di questo studio di fiscalisti e non solo. Dottor Belluzzo, voi fate veramente tante cose con il vostro gruppo di professionisti alla City e non solo. Reduce, dicevamo appunto poco fa, proprio dall'ennesimo viaggio a Londra, le chiedo subito di raccontarci un po' il clima di questi giorni, non quello meteorologico naturalmente, che sarà sempre un pochino grigio, ma magari le è andata anche bene. C'è davvero tutta questa preoccupazione su quello che potrà succedere più avanti in termini anche di riduzione di opportunità per gli stranieri, gli extra britannici appunto, che si recheranno in questo paese più avanti, oppure ancora tutto sommato il clima è sereno? Intanto il clima meteorologico era molto buono, era una primavera anticipata, e quindi ogni tanto anche a Londra ci si sorprende per il bel tempo. Ho partecipato appunto tutti questi giorni, compresa la visita di Alfano, Padoan, Maroni e Sala presso Bloomberg. C'era anche lei. Sì, c'ero anch'io, sì, c'era un nutrito gruppo selezionato di operatori, e quindi c'eravamo anche noi. Ma il clima che si respira è un clima di incertezza. Chiaramente Londra ha votato Remain e tutti i vari interlocutori, anche britannici, diciamo la maggior parte, erano anche un po' solidamente dispiaciuti all'indomani del referendum, e lo sono rimasti. Chiaramente, essendo una democrazia tra le più antiche, quella britannica ha preso una strada e, con spirito assolutamente british, ha tenuto quella linea che avevano deciso, come mi sembra che il primo ministro Theresa May abbia dato dimostrazione, anche, come dire, sovrapponendosi ad alcune forze come quella della Camera dei Lord, su cui poi magari torniamo. Quanto al clima e al sentiment, è un clima di incertezza dove anche noi italiani ovviamente partecipiamo, non siamo gli unici, perché c'è una comunità francese molto elevata, ci sono i tedeschi, ci sono molti, diciamo, europeo comunitari presenti in Inghilterra, per cui il clima è misto tristezza, incertezza, e vediamo cosa succederà con le prime negoziazioni. Senz'altro. Ieri peraltro è stato presentato anche proprio dal ministro della Brexit, un ministero istituito appositamente da Theresa May per portare avanti questo processo, il Great Repeal Bill, che è proprio la procedura legislativa con la quale si cancella tutta la legislazione europea che negli ultimi 40 anni era stata trasferita appunto nel Regno Unito. Adesso io lo dico in maniera molto sintetica, in realtà è una procedura molto complessa, però insomma ieri c'è stato un altro step, un altro passo molto importante. Dobbiamo andare adesso a sentire il traffico. Intanto convoco i nostri ascoltatori, se vogliono fornirci le loro testimonianze, all'800 24 00 24. Stavate accarezzando l'idea di trasferirvi nel Regno Unito, per esempio, per ragioni di lavoro, oppure è un vostro caro ad aver scelto la Gran Bretagna per gli studi o per altre ragioni. Avete già avuto sentore di qualche cambiamento legato a Brexit? Io parlavo con una mia amica qualche sera fa, il figlio di 19 anni, primo anno di università, che in realtà, come tutti i ragazzi, vive con grande spensieratezza tutto questo, non ha avvertito ancora nessun cambiamento, e paradossalmente mi diceva magari le università, che temono una uscita di scena di molti studenti dalle opportunità di studio che l'Inghilterra offre, magari offriranno, chissà, più avanti delle condizioni forse più competitive, visto che adesso pagare una retta in Inghilterra per studiare lì non è proprio una passeggiata per i cittadini extraeuropei. Era certo, molto più salata appunto che per gli europei, chissà che invece queste condizioni non vengano... Abbiamo citato l'articolo di Mantovani sulla stampa, brava, e leggo testualmente: oggi ad esempio chi studia in Inghilterra provenendo da un paese extraeuropeo non ha più in automatico anche il permesso di fermarsi a lavorare per uno o due anni, e questa mancata possibilità le università la stanno temendo, perché potrebbe fare perdere non poco gli studenti. Infatti. Traffico, tra poco. Gondrand Arte e Fiere, i professionisti per le vostre esposizioni. Scopri di più su gondrand.it. Vi presenta Cuore e Denari. Abbiamo scomodato anche le Spice Girls stamattina. Allora, dai Beatles alle Spice Girls, altra generazione di fenomeni musicali britannici. Resta però la parola goodbye, anche qui si cantava di arrivederci e di addio. Allora, con noi stamattina il dottor Luigi Belluzzo, dello studio Belluzzo & Partner, uno studio di professionisti attivo, lo devo dire all'inglese necessariamente, nel Tax and Legal, Wealth and Family Business, operazioni straordinarie, insomma un grande studio di professionisti italiano che però ha anche un'importante presenza a Londra con 25 professionisti, e voi rappresentate, dottor Belluzzo, uno dei principali punti di riferimento per la business community italiana a Londra, che immagino in questi giorni vi avranno chiesto, tutti gli interessati vi avranno chiesto anche delle informazioni su come muoversi, soprattutto coloro che in questi anni hanno fatto degli investimenti, non so, magari hanno acquisito quote di capitale di bar, ristoranti, e non solo, hanno magari fatto degli investimenti immobiliari. Ma prima di parlare di questi, dottor Belluzzo, le chiedo, c'è una domanda di un ascoltatore che dice: ma insomma, quindi era quello che avete detto, io già devo organizzarmi con il passaporto per andare a Londra, non dobbiamo fare tutto così di fretta? Certo che però, dico io, se ci si organizza per tempo, no? Onde evitare sorprese, dottor Belluzzo, lo farebbe già, sì, lei certamente, per andare a Londra? No, allora, se non lo avesse, va rassicurato la generalità della popolazione, sia gli imprenditori che i turisti, che chi si muove per il primo lavoro. L'articolo 50 è stato attivato, ma non è cambiato nulla dal punto di vista legale, quindi rimane un paese dell'Unione Europea e con i medesimi diritti, quindi posso. Devo dire che per il passaporto, io che ci volo parecchio su Londra, si fa molto meglio, e quindi obiettivamente credo che non sarà una grande condizione. Però bisogna un po' abituarsi al fatto che purtroppo il Regno Unito uscirà dall'Unione Europea, vedremo come, perché sarà una negoziazione che, a mio modesto parere, credo porterà turbolenze nel breve periodo e inevitabilmente influenzato dai turni elettorali, in particolare francesi e tedeschi, per cui ci sarà molta politica in azione. Ad ascoltare entrambe le parti, sia le parti degli stati che compongono la Commissione Europea che il governo britannico, si partirà proprio dalle persone, quindi in questo momento direi non sta cambiando nulla, ma bisogna prepararsi al cambiamento che inevitabilmente ci sarà. un'altissima percentuale di residenti europei nel Regno Unito ha diritto a chiedere la cosiddetta permanent residence, che presuppone 5 anni di lavoro nel Regno Unito. Per chiederla però bisogna sottostare a molti adempimenti, bisogna compilare un questionario molto articolato che mi pare di aver letto da qualche parte sia un documento di 85 pagine e adesso la compilazione di questo documento è diventata ancora un pochino più complessa. Pare che si siano registrati casi di rallentamenti burocratici, ritardi nell'esame delle domande, colloqui rimandati. Avvocato, cominciamo da qui. Che cos'è la permanent residence? Che prerogative dà averla? Confermo. Su questo tema devo dire che si è visto un diverso approccio da parte del Home Office, cioè del Ministero degli Interni. Con la permanent residence si ottiene il diritto di rimanere appunto per merito all'interno del Regno Unito, dimostrando di avere un lavoro dipendente permanente o comunque un'attività permanente che consente, diciamo, al governo britannico di metterti nell'elenco di coloro che sono graditi a rimanere. Non voglio citare il parallelismo con la green card, però bisogna un po' abituarsi al concetto che vige negli Stati Uniti d'America. Quindi sicuramente il questionario è 70-80 pagine, le sue informazioni sono corrette, è particolarmente burocratico, quasi troppo, è un po' sorprendente visto dal lato britannico, dove in effetti la burocrazia è spesso ridotta al minimo essenziale. Le do una conferma, credo che sia addirittura una notizia, sono stato autorizzato. C'è un progetto da parte dell'ambasciatore Terracciano e da parte del console Massimiliano Mazzanti, di cui ho parlato nei giorni scorsi naturalmente, che coinvolgerà anche un po' gli operatori, tra cui anche il nostro studio. Probabilmente fra qualche mese, capito un attimo come inizierà il negoziato tra l'Unione Europea e il Regno Unito, ci sarà un vero e proprio progetto per una sorta di help desk con un sito dove noi tutti staremo a dare una serie di informazioni molto chiare per come andare a prendere il permanent residence, in modo che ci sia un test che consente già di capire se posso accedere o non accedere. In questo momento stiamo vedendo molti casi, stiamo vedendo anche dei casi di gente che lavora da 15-20 anni nel Regno Unito, a cui fanno le stesse e medesime domande. Credo che ci sia un approccio in questo momento anche un po' negoziale, forse non molto simpatico, un po' rigido, ma un po' negoziale. E senta, dottor Belluzzo, io tra l'altro l'ho richiamata avvocato sapendo benissimo che lei non lo è, mi è scappato prima, quindi mi scusi. Detto questo, le faccio fare anche il suo lavoro di fiscalista e le faccio sentire la domanda che ci fa Ivan da Milano, pronto ad intervenire in diretta. Ivan, benvenuto. Sì, pronto, buongiorno a tutti. Niente, volevo sapere alcune informazioni, vi stavo ascoltando in macchina. Sì. Io ho lavorato in Inghilterra per 5 anni e sono stato per 7, di cui 2 li ho diciamo, studiato, ho fatto un corso universitario. Praticamente nei primi 5 anni ho lavorato regolarmente come bartender, barista, cameriere e quant'altro. Volevo capire se anche dopo la Brexit io so che avrei un refund, quindi un rimborso delle tasse versate in questi anni, ma non l'ho mai richieste. Non ha mai fatto insomma questa sorta di rivalsa. Ivan, allora aspetti lì, fra un minuto io devo chiudere questa prima parte del programma. Intanto, dottor Belluzzo, riusciamo a dare una prima risposta veloce, poi magari la approfondiamo. Ha diritto a questo refund, come dice Ivan, addirittura una restituzione delle tasse versate nel periodo in cui ha lavorato lì? Guardi, in questo momento non c'è una risposta certa, è prematuro. Diciamo che in termini di tipo generale è uno dei temi di cui dovranno parlare, ma si pensi anche alle rimesse dei pensionati, al sistema sanitario, poi magari ci entriamo, ci sono veramente dei temi che Brexit porta, forse ulteriori. Non basteranno questi 2 anni per completare l'uscita, dato l'ammontare appunto di adempimenti, come dicevo, che devono essere portati a termine? Dipende dall'approccio, se l'approccio è pragmatico magari ce la fanno. È difficile comunque in 2 anni, poi torneremo sul Great Repeal Bill, è molto complicato il quadro normativo e legale, perché appunto l'attivazione dell'articolo 50 determina una serie di cambiamenti a cascata. Allora molto si rilevanti. Fermi lì, la traslo alla seconda parte della trasmissione, ci riaggiorniamo dopo il giornale radio. State ascoltando un programma offerto da... Grazie alle soluzioni per l'isolamento acustico, da sempre Comfort e Saint-Gobain. cuore e denari. E prima di andare a Salute Uomo, questa mattina ritorniamo sulle conseguenze di Brexit. Con noi questa mattina ci sta dando una mano il dottor Luigi Belluzzo, Global Managing Partner di Belluzzo & Partners, che è uno grande studio di professionisti, particolarmente appunto fiscalisti, con una grande esperienza appunto di operatività sul tessuto britannico. E stiamo proprio provando a capire quali conseguenze nel giro dei prossimi 2 anni, quando si dovrebbe completare questa procedura appunto di uscita del Regno Unito dall'Unione Europea, quali saranno le conseguenze per tutti quegli italiani che a vario titolo sono lì o quelli che stanno meditando di andare lì, non scoraggiati appunto da tutte le complicazioni che potrebbero arrivare da questa uscita del Regno Unito dall'Unione Europea. Abbiamo sentito anche alcune domande da parte degli ascoltatori all'800 24 00 24. Dottor Belluzzo, abbiamo completato la risposta al nostro ascoltatore che ha lavorato 5 anni nel Regno Unito, è stato lì per circa 7, ha studiato e lavorato contemporaneamente, voleva capire se ci sono le condizioni o ci saranno per avere questo refund delle tasse versate nel Regno Unito nel periodo in cui ha lavorato appunto per questa economia. Sì, come dicevo prima, in questo momento deve prevalere un po' la prudenza legata all'incertezza. Se posso permettermi, questo esempio di Ivan che ha chiamato in diretta può servire a molti. Faccio un esempio sul mondo del lavoro, di come cambieranno le abitudini. Uso il futuro perché, come ripeto, l'attivazione dell'articolo 50 non ha modificato in sé lo status in questo momento, e quindi è molto importante capire. Dobbiamo usare peraltro il futuro e il condizionale anche, perché poi tutto sommato ci muoviamo ancora in un territorio che è ricco di ipotesi, no? Che non sappiamo bene. Sì. Siamo piuttosto turbolento, però facciamo delle ipotesi, in caso di hard Brexit o di soft Brexit, come si dice, e se vuole, dal nostro punto di vista, che seguiamo anche patrimoni medio-grandi che guardano la diversificazione come rimedio all'incertezza in piena compliance fiscale, le dico, stiamo già facendo una serie di valutazioni di scenario. Però andando al tema del lavoro, magari non tutti sanno che le società britanniche, quindi una semplice limited o una PLC quotata, hanno una procedura specifica presso l'home office per assumere lavoratori extraeuropei. Ovviamente i nostri clienti, che costituiscono un veicolo, non si pongono il problema perché prevalentemente assumono comunitari, visto che Londra è particolarmente ricca di competenze, o britannici. E di conseguenza probabilmente si andrà verso una situazione dove servirà il permesso di lavoro. Io il mio primo lavoro in Inghilterra, erano agli inizi degli anni 90, avevo il permesso di lavoro. Quindi probabilmente andremo in quella direzione e anche, diciamo, le filiali di gruppi italiani dovranno abituarsi a un po' più di ragionamento burocratico che farà assomigliare, se vuole, il Regno Unito maggiormente agli Stati Uniti. Agli Stati Uniti, infatti, stavo pensando proprio a questo. Senta, ci parlava prima delle procedure per richiedere la permanent residence. Che differenza c'è fra questa forma di residenza, chiamiamola così, e la cittadinanza inglese? C'è una fortissima differenza. La cittadinanza dà diritto al passaporto britannico, mentre la permanent residence, appunto, seguendo questa analogia con la green card statunitense, consente il diritto di rimanere in modo permanente a risiedere. Quindi rimani un cittadino non britannico, ad esempio un cittadino italiano, con il diritto di permanere nel Regno Unito con un visto diverso da quello di turismo. Sposare un ci aspettiamo anche che ci sia una serie modulata di differenziazione. Io ritengo molto probabile che dalla Brexit, dalla negoziazione della Brexit, ci sia una serie modulata di negoziazione di favore verso i comunitari. Quello che è successo alla Camera dei Lord è particolarmente significativo. Poi il governo di Theresa May e la Camera, dove avevano la maggioranza, ha, nella loro ottica, rimediato a una posizione negoziale iniziale, ma lo spirito che si respira anche a Westminster è comunque di massima cooperazione. Siamo comunque un'unica Europa, anche se loro sono usciti dall'Unione Europea. Sposare un cittadino inglese conferirà, secondo lei, qualche diritto o garanzia in più? Certo che sì. È già così adesso, e alcuni, anche clienti che sono in questa situazione, stanno valutando in modo molto approfondito, li stiamo già aiutando proprio per l'application al passaporto britannico, che è diverso dal permanent residence. Senta, andiamo ai pensieri di quelle famiglie che invece hanno così l'idea e la possibilità anche economica di mandare il figlio a studiare nel Regno Unito, no? Se si inizia adesso un percorso di studio, a quale titolo poi si potrà rimanere nel Regno, secondo lei? È possibile che il diritto allo studio diventi tema negoziale? Assolutamente sì, e questo è particolarmente significativo nel mondo universitario, ma anche nel mondo cosiddetto della high school. Iniziamo da questo dato di fatto. Il Regno Unito è un prenditore netto di circa 3 miliardi di fondi per la ricerca universitaria. Questi 3 miliardi ovviamente non saranno più dati nel momento in cui il Regno Unito esce dall'Unione Europea ed è fonte di alcune preoccupazioni di alcune università anche prestigiose. Dall'altro lato, come avete già richiamato, il costo di iscrizione all'università in questo momento per i comunitari è equiparato, perché esiste il trattato appunto, a quello dei britannici. Dopo cosa succederà? Ancora una volta succederà una diversa modulazione con la possibilità per le scuole, come già accade in questo momento, e per le università, come già accade in questo momento, di diversificare anche i flussi. Quindi potranno decidere quanti europei, nel senso di Unione Europea, vogliono rispetto a quanti russi, piuttosto che quanti di altri stati del sud-est asiatico. Quindi ci sarà una maggiore selezione e modulazione di accessi che, a seconda di come va la negoziazione, potrà fare la differenza. Il mio consiglio per concludere su questo punto infatti è... sarei andata subito alla richiesta di un suggerimento pratico per quelle famiglie che magari, ecco, spediscono il ragazzo adesso, poi naturalmente il percorso di studio viene completato fra 3 o 4 anni e quindi in questo frangente cambia di tutto sul tessuto inglese. Quindi consigli pratici? Io mi sentirei assolutamente di rassicurare, cioè io non cambierei se una famiglia ha deciso di far iniziare o proseguire un percorso di studio nel Regno Unito, non mi sentirei assolutamente di consigliare di cambiare. Ovviamente avranno già studiato tutti gli elementi pro e contro questo percorso, ma non credo, reputo assolutamente remota, anche sentite le dichiarazioni della stessa Theresa May, piuttosto che del nostro ministro degli esteri l'altro ieri a Londra, piuttosto che di altri leader europei. Io credo che la negoziazione di Brexit si giocherà molto su questi temi di diritto, perché se cominciamo a non trovarci su questi aspetti, come dire, di comune heritage, scusi l'inglese, di comune conoscenza e sostanza di essere europei, allora sarà hard Brexit, e hard Brexit non credo che convenga al Regno Unito. Senta, un'ultima considerazione, poi magari più avanti, nei prossimi mesi, quando ci saranno le idee più chiare da parte di tutti gli attori in gioco, torneremo su questo argomento, andando come sempre a rispondere proprio ai quesiti pratici degli ascoltatori. Naturalmente voi non avete, immagino così, dottor Belluzzo, nessuna intenzione di spostare i vostri uffici, perché anzi sarà per voi una grande occasione di continuare a fornire consulenza su tutti questi aspetti così complessi. Per esempio, per chi intende fare comunque un investimento immobiliare a Londra o societario, per esempio comprare un appartamento, rilevare un bar o un ristorante, secondo lei da qui ai prossimi 2 anni saranno molti più grattacapi o comunque rimarranno sempre delle buone opportunità? Secondo noi non saranno grattacapi, ci saranno opportunità. A noi, come sa, e la ringrazio di averlo detto, siamo un po' a cavallo della manica, nel senso che con 55 professionisti abbiamo quasi la metà, cioè 25 a Londra. Noi stessi abbiamo ragionato di continuare ad investire, di mantenere l'investimento e di migliorarlo, perché riteniamo che comunque il Regno Unito sarà una significativa piattaforma per fare affari non solo nel Regno Unito, ma a livello internazionale nei mercati non solo finanziari, ma anche commerciali. Detto questo, in questo momento preciso non c'è nessuna modifica normativa, quindi si possono comprare immobili o si possono fare affari attraverso società. Io capisco che l'immaginario collettivo degli italiani sono tutti ristoratori, ma ci sono anche italiani che stanno facendo molto bene nella moda, nelle start-up, nella tecnologia, negli investimenti, nei fondi di investimento. Cioè il tessuto che Londra ha creato dà una grandissima competenza e conoscenza che, come dire, come cittadini italiani sicuramente mettiamo a disposizione anche del nostro paese. Però dal punto di vista pratico e pragmatico, attenzione che le modifiche normative e fiscali che il Regno Unito ha introdotto non sono da correlare a Brexit. Cioè l'errore da non fare è le modifiche che si stanno avvenendo, ad esempio la diminuzione dell'imposta societaria, la corporation tax, che sta scendendo dal 20 al 19 ed è programmato andare al 17%, quindi in modo significativo rispetto all'Italia o ad altri paesi, non è correlata a Brexit, sta avvenendo secondo le tappe decise dal governo Cameron. Quindi business as usual, come dicono a Londra, sì, ma nello stesso tempo pragmatismo, nervi saldi. Ci saranno turbolenze e cerchiamo di aiutare i nostri clienti a navigarle. Insomma, l'importante è partire dalla piena consapevolezza che qualcosa sta cambiando e quindi bisogna essere in grado appunto di affrontare questo nuovo scenario, avere anche le idee chiare, un po' come succede nel risparmio, degli obiettivi che si intendono perseguire. Se l'obiettivo è comunque cogliere le opportunità che questa economia in ogni caso continua a dare, a cominciare appunto dall'apprendimento della lingua, raccogliamole però adesso con qualche complicazione più avanti. Dottor Belluzzo, per ora grazie per essere stato con noi, ma torneremo senz'altro a coinvolgerla nei nostri contenitori, appunto perché ci è piaciuto anche quello dicevamo con Nicoletta, il suo approccio molto molto pragmatico insomma alla questione. Grazie, buona giornata. Grazie a voi, buona giornata a tutti. Il microfono accendiamo. Sì, adesso, qualche volta perché ero presa da questa dalla diretta telecamera Facebook, mamma sai. Mia no, Dio, con questi capelli che ho stamattina. Allora noi andiamo intanto e forse torniamo anche a Londra. Anzi, davvero? Sì, ci andiamo? Sì, andiamo a Roma. L'anno che ci arrivai mi accadde un fatto nuovo. La sera stessa del mio arrivo mi recai in una certa casa e prima di avere timori o nausee io riuscii ad essere uomo. Poi un giorno incontrai una donna, spensi la luce e ci abbracciamo. E allora, d'improvviso, un freddo sgomento mi entrò nel corpo fino a paralizzarmi. Lei rimase così seduta sul letto e io le scivolai accanto, con la bocca contro le coperte, con le labbra che mi tremavano. Grande, grandissima Marcello Mastroianni, che nella clip che avete appena ascoltato interpreta. No, quasi quasi vi faccio il domandone proprio su questo. Qual è il personaggio che interpreta anche il anche lei, vedi Carmelo se la ride, anche lei aveva spento il microfono. A me lo spegne sempre Carmelo, per la verità. Comunque. Ve l'abbiamo riproposta perché in parte tratta uno dei temi di cui parleremo oggi insieme ad Andrea Salogna, che è qui in studio con noi, quindi potete vederlo, urologo, andrologo presso il Dipartimento di Urologia dell'Università Vita Salute del San Raffaele di Milano, direttore scientifico del nostro appuntamento mensile. Andrea, ciao, benvenuto e posso Grazie. Dire anche scrittore. Dobbiamo dirlo, non Aiuto. Possiamo. L'emozione. Lo teniamo un po' a battesimo, un'anteprima. Un'anteprima. Vedi che è diventato rosso. Sì. E peraltro su di me si vede tanto rosso. Ma non dire così, che da Facebook non si vede nulla. No. Allora, raccontaci, perché noi siamo un po' una famiglia allargata. Esatto. Prima di parlare di Marcello. Beh, allora, bando all'emozione, ho scritto un libro che qualcuno ha pure deciso di pubblicare, che non riguarda il mondo della medicina, ma riguarda il mondo dell'uomo in quanto tale, e verrà pubblicato a breve, possiamo dirlo? Sì. No, è già partito praticamente. È già partito, l'11 di aprile esce in libreria e sarà anche disponibile nella sua versione ebook. Possiamo dire anche il titolo? Ma sì, perché poi sono mesi che ti frequentiamo e così i nostri ascoltatori e non vogliamo saperlo da altri. No. Quindi di per bene le cose. Il titolo sarà Domani chiameranno domani e sarà edito da una grossa casa editrice. E possiamo dire che cosa racconta? Racconta la storia di un uomo, sì, racconta la storia di un uomo e delle sue difficoltà nell'arco di un anno molto lungo, molto intenso, tratto molto particolare. Tratto da una storia vera. Sì, infatti, quindi è una non fiction novel e spero che piaccia. A me piace, la copertina mi piace moltissimo, spero che piaccia a tutti. Piacerà bellissimo. Anche a noi. Domani, chiameranno domani. Esatto. Quante volte bellissimo. Uno ha detto domani, mi chiamerà domani, sì, per questo non ha chiamato. Che questi non uomini! Allora, torniamo a parlare di uomini nel nostro appuntamento mensile. Siamo andati a Londra con la Brexit. Certamente. E a Londra torniamo, perché da Londra, a Londra proprio durante il congresso europeo di urologia, Andrea, è stato presentato. Sì. Uno studio tra l'altro coordinato da un amico di Cuore Denari che salutiamo, Emanuele Iannini dell'Università, un amico caro. di Roma Tor Vergata, sì, uno studio, che un'indagine che evidenzia un boom di pillole dell'amore al maschile contro l'impotenza. 180 milioni le sexy pillole vendute nell'ultimo anno nell'Unione Europea, ma c'è un dato allarmante, anzi più di uno, Andrea, dilaga il fai da te, con tutti gli annessi e connessi, quindi si prendono queste pillole senza il consiglio medico, ma non solo, si acquistano in internet, e alcune persone, alcuni uomini le acquistano non perché hanno un problema di disfunzione erettile, ma vogliono proprio acquistare queste pillole per non rischiare di fare brutta figura e quindi per diventare dei super uomini sotto le lenzuola. Allora, Andrea, parte della nostra trasmissione verterà proprio su questo, ma sì, abbiamo anche altri temi che vogliamo anticipare, perché abbiamo fatto una rassegna stampa ragionata delle notizie che sono apparse in questi giorni e che mettono al centro la salute al maschile. Parliamo anche di profilattico al maschile, certo, di questo vogliamo anche capire che cosa, quali sono gli aspetti di più interessanti. Anche e poi ci sarà il nostro piccolo grande uomo. Il nostro piccolo grande uomo, la rubrica che nasce proprio dalle vostre domande. Esatto. Allora, e poi parleremo anche di uova di Pasqua, a proposito, e anche di fertilità. Mi piace commentare la notizia che hai appena riferito, che viene dal nostro più grosso congresso europeo degli urologi. Mm-hmm. A Londra negli giorni scorsi c'erano più di 15.000 urologi provenienti da tutto il mondo. La notizia è piuttosto importante perché per molto tempo si è pensato che l'acquisto online dei prodotti di qualsivoglia forma, farmaceutici intendo, fosse in qualche modo ostacolato perché questo andava a documento delle aziende farmaceutiche che traevano meno guadagni. Mm-hmm. Io, ahimè, sono sempre stato contro i detrattori di questo tipo di informazioni, perché in realtà l'acquisto online è purtroppo estremamente pericoloso, e questa vendita delle pillole per l'erezione ne è il chiaro esempio. Alcuni studiosi negli anni scorsi avevano dimostrato come del materiale venduto online, tenete conto che in Italia non è possibile acquistarlo perché non esistono farmacie online autorizzate a vendere questo tipo di prodotto, e quindi tutto ciò che arriva o viene da fonti estere o è illegale, bene, i prodotti venduti in questo modo avevano un contenuto della molecola attiva pari a zero, talvolta poco più che zero, ma soprattutto avevano degli eccipienti strepitosi nel senso che cemento, polvere di cemento, talco, polvere di talco, quindi potenzialmente estremamente dannosi. Fatto salvo che la pericolosità di ciò che è costitutivo di una pillola possiamo anche accantonarla, il rischio reale è quello del fai da te, e oggi ne parleremo più volte. Perché il rischio reale è quello del fai da te? Perché in realtà, ahimè, come abbiamo detto tante volte, la disfunzione erettile è spesso campanello d'allarme per lo stato di salute tutto dell'individuo. Abbiamo detto più volte, e mi piace ricordarlo, che molto spesso, soprattutto nelle persone giovani, negli uomini ipertesi, negli uomini diabetici, avere un problema di erezione è prodromico di eventi coronaropatici molto gravi. C'è stata una infarti. Ricerca, voi l'avete al San Raffaele, l'abbiamo detto fatto tanti anni fa. E tre, figurati. Però questo dato significativo ci dice che andare su internet ed acquistare un farmaco, non già per la pericolosità del farmaco, ma per ciò che sta dietro, cioè la qualità dell'erezione, che è, abbiamo detto, elemento di salute, purtroppo riveste un quadro di severità spesso tale da condurci ad errori. Poi è anche vero che, ahimè, ci sono soggetti che utilizzano questo tipo di farmaco senza averne bisogno. Ecco, che cosa succede in questi casi? Si parla casi? Di farmaci ricreazionali. Io sì, non sono completamente contro l'utilizzo di un farmaco a scopo ricreazionale, per il banale motivo che, se solo pensaste al fatto che ad oggi, nella vita quotidiana, un uomo su quattro di quelli che arrivano nell'ambulatorio di un andrologo per un problema di erezione è un uomo di età inferiore ai 40 anni, io escludo che tutti questi ragazzi, perché possiamo chiamarli tali, abbiano problemi biologici. Tanti hanno una componente psicogena, cioè un problema legato al loro stato ansioso, prestazionale e quant'altro. Ora, l'aumentare, il migliorare la qualità della prestazione in questo contesto è spesso foriero di grandi vantaggi, anche in ambito di rapporto di coppie, perché tante coppie scoppiano perché lo stato prestazionale ansioso rende ragione di difficoltà nei rapporti. Questo è, infatti, traslabile a tutto tondo. Salute Uomo vuole anche, con i nostri appuntamenti, far uscire la disfunzione erettile dalla sua nicchia di cose da uomini, anche per trasformarla in un tema da portare all'attenzione del medico, per capire se è un problema dettato dall'insicurezza, che dalla non vuol dire meno importante, però bisogna intervenire in modi differenti. È anche un tema, è un problema da discutere all'interno della coppia, perché molte donne che vivono questo problema pensano di essere rifiutate, inadeguate, pensano a dei tradimenti. Ci arrivano molte mail di uomini per proporci i loro temi, ma noi a questo proposito abbiamo selezionato la mail di una signora che vi legge. Si parla spesso di menopausa e di calo di desiderio al femminile. Io ho 54 anni, in menopausa da 2, ma il problema non è mio ma di mio marito. Insomma, non voglio andare nel dettaglio, ma non è più quello di prima, non ce la fa. Vorrebbe, ma al momento buono si spegne. Eppure io gli piaccio, è parecchio. Che sia arrivato il momento di usare la pillolina magica, non voglio fare pubblicità, ma sarebbe una benedizione. E questo è il contesto di cui parlavamo poc'anzi, cioè molto spesso sono le compagne a portare i loro uomini in ambulatorio perché, ahimè, quella, se vogliamo, quella virilità, quella mascolinità che soprattutto la nostra cultura tipicamente mediterranea ha tante volte sottolineato, e portando a dover nascondere elementi legati alla sessualità che in realtà dovrebbero essere palesati, sono proprio le donne a portare i loro compagni che in realtà hanno vergogna di farsi vedere, di farsi visitare, e spesso quel vantaggio che, ahimè, avere un problema di erezione ci avrebbe permesso di ottenere nel preservare lo stato di salute, tanto più dilazioniamo la richiesta di aiuto al medico, tanto più viene ad essere perso. Quindi benvengano queste signore. Allora, noi adesso benvengano anche i mercati, 800 24 00 24, se volete intervenire, siamo in diretta Facebook, potete mandarci anche messaggi al 349-238-6666. Ricordate, abbiamo iniziato la nostra parte di Salute Uomo con Marcello Mastroianni. Se volete partecipare al domandone per ricevere a casa un libro, non è ancora quello di Andrea Salogna, ma poi prima o poi arriverà, presto. Aiuto. Mercati. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta. State ascoltando un programma offerto da. Grazie alle soluzioni per l'isolamento acustico, da sempre Comfort e Saint-Gobain. Cuore e denari. Vediamo se è l'uomo per me. Comunque, ritorniamo a parlare di Salute Uomo in diretta Facebook. Oggi in studio con noi è il professor Andrea Salogna. Andrea, per noi amici, certo, di Cuore Denari, stavamo affrontando un tema che è ancora per molti uomini un tabù, perché non si va dal medico, si aspetta, ci si fa prendere dal timore, si pensa che la situazione si risolva da sé, invece stiamo parlando di disfunzione erettile, il problema può essere anche un campanello d'allarme. Abbiamo detto tante volte che la salute sessuale può essere una spia molto importante della salute generale, quindi non sottovalutare questo aspetto. Parleremo anche di contraccettivo al maschile e di un'app che promette di valutare a casa con un semplice test la fertilità. Allora, tutto quindi vicino, a portata di casa. Antonio da Bologna ci ha chiamato. Antonio, buongiorno. Buongiorno. Pronto? Siamo qua per lei. No, io già mi imbarazzo al telefono, pensate voi dopo alla fine. No, io volevo dire al dottore, cioè in pratica io è un po' di tempo e già ho fatto una visita andrologica, che diciamo non riesco ad arrivare alla fine. Cioè, ho capito, ho capito. Ho capito. Mi capisce? Molto bene. Da 2 anni. Molto bene. Grazie Antonio, intanto che ha rotto il ghiaccio all'800 24. Io devo fare un plauso ad Antonio, perché possa essere d'esempio a tantissimi altri uomini che hanno vergogna nel proporre le loro difficoltà alla figura di uno specialista. Se qualcuno si rompesse un piede, avesse la pressione alta o l'allergia, si vergognerebbe? Non credo. Io credo che da un punto di vista legato alla salute, anche il parlare della propria salute sessuale sia importante. D'altro canto, la qualità della salute sessuale è tra quelli che vengono considerati diritti dell'individuo. Andrea, è vero, però io credo che molti medici dovrebbero anche, penso al medico di medicina generale, domandare al loro paziente la qualità della loro vita sessuale. E invece è un tema che sia con le donne sia con gli uomini non viene affrontato. Quindi anche la classe medica, considerando che ci dite che la salute sessuale, al di là della relazione di coppia, è importante proprio per la salute generale, cari medici, chiedete come va? Prendo il casso e hai ragione, nel senso che ahimè la più parte di noi non lo fa ritenendolo marginale. In realtà è un elemento tutt'altro che marginale, non è solo importante per la salute cardiovascolare, ormai i dati, e anche il mio gruppo l'ha spesso dimostrato, i dati ci dicono chiaramente che se anche togliesse tutti i rischi legati al cuore, la salute dell'individuo in generale è molto peggiore in chi abbia un problema di erezione, e ancora una volta il problema di erezione compare come campanello. Per questo nostro amico Antonio, il fatto che non si mantenga l'erezione, questo può essere un elemento molto chiaro di un problema vascolare. Noi facciamo sempre l'esempio di una vasca da bagno che si deve riempire, ma che deve anche rimanere riempita perché uno ci possa fare il bagno. Ma se il tappo della vasca da bagno non funziona bene, ahimè l'acqua fugge. Questo è un po' quello che succede talvolta negli uomini anche di soli 52 anni che hanno problemi di erezione. Al signor Antonio vorrei dire di rivolgersi comunque con fiducia al suo andrologo, al suo urologo, a chi fondamentalmente si occupa di medicina della sessualità, perché rimedi ce ne sono, anche solo in forma farmacologica, ma ce ne sono tanti. Forma farmacologica, gli ascoltatori, uno in particolare ci scrive, costano tantissimo però. Ah sì. E allora diventa sì, questo veramente... è un elemento che nel corso degli anni è stato variamente trattato. Sebbene qui non si debba fare pubblicità a nessuno, è però vero che almeno uno dei brand più importanti, che rimane a mio avviso elemento di base per tutta la scienza che nell'arco degli ultimi 25 anni si è occupata di medicina sessuale, bene, quel brand oggi ha anche una forma di tipo generico, e ci sono generici e generici in Italia di elevatissima qualità e a prezzo molto molto basso. Non bisogna vergognarsi di chiederli, e bisogna ovviamente assumerli laddove una prescrizione medica abbia suggerito che ci siano spazi e modi perché il farmaco venga assunto. Allora, buongiorno care, la mia domanda è per il dottore. Bene. Normalmente. Come mai non chiedono? Ecco, ha provato mio marito la pillola prescritta dall'urologo, ma dopo averla presa soffre di mal di testa. Ci sono degli effetti collaterali, persone che non possono prendere le pilloline dell'amore? Nicoletta, che la prima lezione del mio amato professore di farmacologia recitava: un farmaco efficace e come tale può avere effetti collaterali, che non vuol dire una controindicazione in assoluto. Gli effetti collaterali tipici di questa categoria di farmaci, che nell'insieme si chiamano inibitori delle fosfodiesterasi di tipo 5, contemplano tra gli altri questa cefalea vasomotoria, cioè una sorta di distensione eccessiva dei vasi che può comportare arrossamento del viso e cefalea, talvolta naso chiuso, difficoltà digestive e altri. In realtà gli effetti collaterali compaiono in una percentuale di pazienti molto bassa, e nella più parte dei casi sono di lieve entità o moderata entità, e passano con le assunzioni successive. Ce ne sono alcuni di effetti collaterali, ad esempio può comparire un dolore muscolare agli arti inferiori, un dolore muscolare al basso dorso, che difficilmente passano, sono facilmente riconoscibili. Però ad oggi esistono almeno quattro molecole diverse commercializzate ufficialmente in Italia. Passare dall'una all'altra è possibile sotto corretta prescrizione medica ed è molto facile che gli effetti collaterali che si associano all'uno non debbano per forza corrispondere all'altro. Andrea, andiamo al tema della contraccezione. Sì. La scienza negli ultimi, la ricerca ha fatto dei passi avanti anche per quanto riguarda la messa a punto di un contraccettivo soltanto per gli uomini. A che punto siamo? È vario nel corso della letteratura il tema della contraccezione ormonale al maschile, perché è di questo di cui si parla. Cioè, esattamente come si è provato con le signore e lo si è fatto efficacemente, e ormai la scienza contraccettiva nell'arco degli ultimi 30 anni ha fatto dei progressi enormi, nell'uomo variamente nel corso degli anni si è testato una composizione di molecole a base di progestinici e di testosterone che annullassero, cercassero di ridurre quasi al minimo la produzione di spermatozoi a livello testicolare. Questo studio a cui si fa riferimento ci dice, rispetto al minimo sindacabile che l'Organizzazione Mondiale della Sanità stabilisce essere intorno ai 15 milioni di spermatozoi per millilitro, il farmaco riesce a portarlo al di sotto di un milione e talvolta a zero, con la possibilità di evitare eventi di tipo fecondativo fisiologico. Al di là di prescindere da quello che è il mio giudizio rispetto a una molecola di questo genere, ahimè la differenza che esiste tra le signore e gli uomini non è tanto che non si voglia attivare una contraccezione ormonale al maschile, ma la ripresa eventuale della produzione di spermatozoi a livello testicolare è totalmente altra rispetto a ciò che succede con il ciclo ovarico nel caso delle signore. E questo è il motivo per cui variamente... Esatto, variamente intrapresa una contraccezione di questo genere, si è poi preferito utilizzare sempre eventi di tipo contraccettivo totalmente altri. Va da sé che il condom, cioè il profilattico, rimane il modo principe utilizzato in Italia, soprattutto per la contraccezione stessa. Non molto utilizzato, se secondo una ricerca dell'Eurisco solo il 35% dei ragazzi italiani usa il profilattico. Questo è, ahimè, e questo è un tema importante che affronteremo, perché sui ragazzi ci si fa poca informazione. Sì. C'è poca educazione, ritornano le malattie sessualmente trasmesse, l'abbiamo detto tante volte, i ragazzi di alcune malattie non conoscono neppure l'esistenza, perché sono malattie che erano sparite. Uno dei nostri amici ci ha scritto, Nicoletta, tra le letterine che ho letto per Piccolo Grande Uomo ce n'è proprio una dedicata a queste streghe, cioè a quelle le malattie. Le streghe sono tornate. Esatto, a quelle malattie che i nostri nonni, forse qualcuno dei nostri papà della mia generazione ancora conosciuto, il famoso scolop, tanto per essere sdogananti termini che ormai abbiamo imparato a sdoganare in radio qui con voi, ecco, queste malattie, la Neisseria gonorrea e quant'altro, sono tornate e sono purtroppo, ahimè, resistenti spesso ai farmaci che prima si utilizzavano con successo. 800 24 00 24, avete ancora tempo di superare la barriera rosa per intervenire e partecipare al nostro appuntamento sulla salute al maschile. Naturalmente un invito che è rivolto non solamente ai nostri ascoltatori ma anche alle nostre ascoltatrici: il ruolo della donna nella coppia è fondamentale anche per aiutare l'uomo ad affrontare dei temi su cui generalmente non vuole mettere la testa. Arriviamo subito dopo con il nostro piccolo grande uomo e poi con un commento a questa app che permette di fare un test per verificare la qualità dello sperma e la fertilità semplicemente usando uno smartphone. Faircam Distribution, spedizioni in Italia ed Europa su misura. Faircam.com vi presenta Cuore e Denari. Allora, siamo tornati. Partiamo con la nostra rubrica Il piccolo grande uomo, ma Carmelo, due considerazioni che stavamo facendo fuori onda, siamo in diretta Facebook. Un ascoltatore che ci scrive: 40 anni, ho problemi di disfunzione erettile, ho usato per tanto tempo, ho fatto uso di coca, che cosa può essere successo? Un altro messaggio: i profilattici costano troppo per i ragazzi che fumano, che comunque spendono i soldi per comprare le sigarette, farsi le canne e poi anche gli aperitivi, quindi bisogna vedere dove i soldi uno li vuole mettere. Beh, di base non ho peli sulla lingua, la cocaina, come pure tutti gli stupefacenti, sono elementi dannosissimi per la qualità di vita sessuale, per la salute tutta dell'individuo al maschile. Non è vero che la cocaina implementi le qualità del rapporto, perché migliora le performance, fa dei danni a lungo termine drammatici sia in termini riproduttivi che in termini sessuali, e questo amico che ci ha appena scritto ne è l'esempio. Andiamo con il nostro piccolo grande uomo. Ogni genitore durante la prima infanzia controlla che tutto sia a posto e che non ci siano problemi, anche lì giù. Ricordo la mamma che controllava ogni millimetro della mia pelle. Il tempo è volato via e mi sono trovato io, giovane uomo, a controllarmi e a studiarmi. Iniziano i primi batticuori e con essi la voglia di amare. Peccato che ci sia sempre un fastidio, una difficoltà nello scoprire il glande. La pelle non viene giù tutta. Che fare? Marco. Eccoci qua, allora Andrea, che fare? Beh, l'abbiamo detto alcune volte, ma non è mai inutile ripeterlo. Quello a cui Marco fa riferimento è un problema che noi chiamiamo fimosi del prepuzio, cioè un restringimento della pelle al di sopra del glande che rende difficoltoso scoprire il glande stesso, il che può succedere sempre, e in questo caso il glande non si scopre, e questo può essere fonte di danno sia perché la cute, cioè la pelle al di sotto, ne viene a soffrire, sia perché vi rimangono sostanze che infiammano i tessuti, sia perché, ahimè, talvolta lì sotto si celano patologie anche severe, quali tumori. Di base, però, spesso questo succede più frequentemente quando c'è un'erezione, cioè quando la pelle non è in grado di scoprire completamente il glande ed è causa di dolore. L'amico Marco ci ha detto due cose importanti, a mio avviso. Il primo è delle due cose. La prima è legata fondamentalmente al periodo dell'infanzia. Durante la fase pediatrica c'è qualcuno che ci monitora. Successivamente dobbiamo farlo in prima persona, e ad oggi ben sappiamo quale sia la differenza che esiste tra le signore che si fanno la palpazione mammaria e i maschietti che i genitali manco se li guardano. Questo è il primo elemento importante. Ahimè, succede ancora molto spesso, spero che questo si riduca. Di base, però, la fimosi può essere espressione di patologie acquisite nel corso della fase più adulta. Faccio un esempio: il lichen sclerotrofico, che è una patologia di irrigidimento del tessuto che può comparire da sola. Talvolta questo irrigidimento del tessuto che comporta la fimosi si associa ad esempio all'esordio o alla manifestazione del diabete, quindi è ancora una volta un campanello d'allarme, una spia da seguire. Generale, esattamente. Dove si va, si può risolvere naturalmente il problema. Talvolta gli amici dermatologi utilizzano delle terapie in base di steroidi in crema che possono ridurre questo tipo di rigidità tessutale. Nella più parte dei casi bisogna ricorrere a un piccolo intervento chirurgico che si chiama circoncisione. Allora, un commento su questa app che permette di fare un test fai da te per verificare la qualità dello sperma e la fertilità. Questo è quanto emerso nell'ultimo periodo, a seguito di una pubblicazione su Translational Medicine, che è una rivista dedicata agli studi appunto traslazionali, cioè quelli che partono dalla ricerca di base arrivano all'uomo e viceversa dall'uomo arrivano alla ricerca di base, che vuol dire cellule e quant'altro. Questa app, che cos'è un'app? Prima di tutto, forse lo sappiamo tutti, è qualcosa che si utilizza a mezzo dei sistemi tipo gli smartphone, sì, che permette in questo caso di andare a registrare la quantità e la qualità degli spermatozoi in un contesto che è quello domiciliare. Io vedo sia del pro che del contro in questo. Il primo elemento è il pro. attenzione, perché si va a valutare un aspetto, quello della capacità riproduttiva, che è ancora una volta elemento di salute, e questo è importante, e si è sdoganato a tutto tondo un elemento, quello della fertilità o dell'infertilità, che ahimè è stato variamente discusso nel corso dei mesi. L'aspetto pericoloso è quel fai da te che abbiamo discusso già all'inizio della nostra puntata. Vedi che facciamo una puntata che poi alla fine è circolare. Esattamente, perché il fai da te ci potrebbe portare a misconoscere dei problemi molto più seri, semplicemente perché ancora una volta si incorre nel fenomeno ho vergogna di eseguire una raccolta di liquido seminale, di portarla in un contesto quale quello di un laboratorio ufficiale, dove la valutazione può essere molto più rigorosa. Allora, abbiamo detto tutto quello che volevamo dire, di ci saremmo fermati più, magari soffermati su alcuni aspetti, ma torneremo e dedichiamo gli ultimi minuti di trasmissione per ricordarvi un appuntamento, perché dal 31 marzo al 2 aprile nelle principali piazze delle città torna l'Associazione Italiana contro le Leucemie, Linfiomi e Mielomi Onlus, l'AIL, con le uova di Pasqua, e quindi andate, prendiamo con questo piccolo gesto un uovo di Pasqua per sostenere la ricerca, perché bisogna sempre sostenerla. Ce la spiega in una bella intervista il professor Paolo Corradini, che è membro del comitato scientifico e referente AIL di Milano. Ma quest'anno l'acquisto è ancora più ghiotto, vede anche la collaborazione dei chef, di alcuni chef stellati. 5 chef sostengono l'AIL con l'iniziativa Uovo in cerca d'autore. Sulla nostra pagina ha lasciato la sua ricetta per noi Cristina Bauerman, che è chef di Glassosterie di Romeo di Roma, una ricetta di cremoso al cioccolato. Quindi andate nelle piazze, mettiamo il link l'ora. Nelle nostre piazze, acquistate l'uovo di cioccolato, acquistatene due, uno lo mangiate e l'altro lo utilizzate per preparare le ricette con l'iniziativa Uovo in cerca di autore. Molto per le ricette bene. C'è il nostro sito, ma naturalmente tutte le informazioni sul sito dell'AIL. Ce l'abbiamo fatta, che bello. Per questa abbiamo detto tutto, sì. Siamo contenti che anche in questa puntata, Andrea, abbiamo fatto informazione, abbiamo trattato dei temi che quando Deborah e io ne parliamo ci dicono ma ne parlate in diretta. Sì, ne parliamo in diretta. Devo dire abbiamo che sdoganato il concetto dello sdoganamento tante volte, e credo che valga sempre la pena farlo, fare informazione in modo semplice ma allo stesso tempo rigoroso. E soprattutto iniziamo a farla con i nostri bambini quando siamo piccoli. Bravo. Per cui su questo, sull'educazione, senza pudore, l'educazione al risparmio, il minimo indispensabile, l'educazione alla salute, alla sessualità e all'emotività sarebbero proprio da incentivare, da iniziare, soprattutto nell'epoca adolescenziale, vero? Infatti ce n'è bisogno. Arrivederci a tutti, buon weekend a tutti, domani chiameranno, domani io lo ricordo ancora perché questo titolo ci piace tanto, direi, e noi torniamo lunedì invece. Non domani perché c'è il weekend, ma intanto buon fine settimana a tutti.